È il colmo del pessimismo. Però, diciamo, pessimismo, non riuscire mai a arrivare davanti a Lorenzo. Poi non dir coach perché sembra un pipì per il culo, però lo so che devo abituarmi, ma quando mi chiamano coach i ragazzi non mi giro. Quanto a Ekeleston bisogna avere rispetto per le persone molto anziane, soprattutto quando per l'età non riescono più a controllare le parole. Tutti convocati di Carlo Genta. Quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Grazie, signor Genta. E cosa ci volete fare, amici miei? Avrei preferito i Pearl Jam, però mi mettono Michael Bublé, d'altra parte nevica e siamo nei pressi di Natale. Tutti convocati anche oggi, 800 24 00 24, numero verde. Per fortuna c'è anche una neve buona e non solo quella che fa smoccolare milanesi e tutti quelli che abitano nelle grandi città. È quella della Val Gardena, dove i nostri piazzano Marsaglia e Dell. Quindi doppietta sul podio alle spalle di Svindal, che vince questa gara. Chiudiamo così, dunque, sotto la neve, la settimana delle celebrazioni liturgiche di Antonio Conte, di troppa Coppa Italia, in cui segna perfino Niang, che fino adesso si era distinto solo per fesserie fatte in giro per Milano, di Stendardo che non può fare l'avvocato perché l'Atalanta non vuole, di Messi che fa i record. La riapriremo con la sentenza sul Napoli, ma per fortuna in mezzo si gioca. Poi da lunedì vi lascio alle mani e alla voce soprattutto di Giovanni Capuano. Intanto abbiamo convocato Pierluigi Pardo. Ciao Pierluigi. Buongiorno, come va? Nevica? Eh sì, sarà la giornata dei palloni rossi, eh? Io sono a Roma e come tutti i mezzi terroni devo dire, no, ma insomma sono romano e devo dire che la neve mi emoziona sempre. So che è una cosa che appunto giustamente c'è gente che va smoccolando perché ci sono un sacco di disagi, ma non... Sì. Non ce la faccio, continua comunque, a emozionarmi. Comunque sarà la giornata dei palloni rossi, non solo perché siamo vicini a Natale. Forse anche di qualche rinvio, vedremo. No, ma poi più tardi sentiremo chi di Meteo se ne intende. Ma tu sei d'accordo con Trappattoni che dice che Cassano è l'anticonte? Per ora si sono dati solo dei qua qua qua e del come si permette questo di farmi la morale. Ma guarda, io credo che quella vicenda, insomma, un po' la conosco, nel senso che ho parlato con tutti e due in realtà. Sì. Poi penso che verrà un giorno in cui la vicenda sarà chiarita, nel senso che credo che tutto sia nato in realtà da una presa di posizione di Conte sulla battuta di Cassano sui soldatini, che quella sicuramente non voleva essere offensiva nei confronti della Juve, anzi era secondo me semplicemente una dimostrazione, se voglio, la maturità, nel senso che Cassano ha detto: io non sono abbastanza professionale, abbastanza quadrato per poter stare in quell'ambiente lì. Ma non era una critica al sistema. Conte, senza citarlo, gli ha fatto una controbattuta. Cassano, come diciamo a Roma, ha pigliato tacito e quindi sì, qua alla fine è venuto fuori un maracanà, cioè fuori una roba fuori dal mondo. Ma insomma, in realtà io credo che anche per motivi semplicemente, insomma, il fatto che Conte è stato allenatore del Bari, è un allenatore bravo, oggettivamente bravo, credo che non ci sia da parte di Cassano nessuna cattiveria, e posso dire che da quello che ho capito anche da parte di Conte, per cui insomma è una classica vicenda che poi insomma col tempo avverrà un giorno in cui scopriremo che si è chiarita da sola. Sì, tu dici, sarà chiarita, sì. Sì, sarà chiarita da sola. Intanto settimana inutile di Coppa Italia che mi intristisce da morire, non so a te. Beh sì, anche se poi in realtà la Coppa Italia bisogna dare atto che è stata migliorata come formula. Sì, adesso forse quel che si poteva... sono l'ultima cosa un po' noiosetta, ma insomma dai quarti di finale in poi ci sarà un Juve-Milan che non è male, molto, ci sarà forse un Roma-Fiorentina o un Roma-Udinese, ci sarà credo un Inter-Napoli, può essere, adesso non vado... Sì, ci possono essere delle partite, insomma, di pallone, insomma, male, dopo un po' di fuffa. Guarda, la Coppa Italia dobbiamo dire che no, nel mondo dello sfascio avanza, è una delle cose invece secondo me che negli ultimi anni è stata molto migliorata, applicando sì, il test di serie, facendo la finale unica. Ma sì. No, ritrovata un po' di, ha ricostruito un po' di fascino. Quel che si poteva fare si è fatto. Intanto io ci tengo a ringraziarti pubblicamente perché spesso facciamo sentire le lezioni di latino del professor Lotito. Io adesso non ci crederai, ma sono a Roma in questo momento e sto facendo la posta a Lotito, perché sì. Lotito è una persona, al di là insomma, delle idee, delle passioni sportive, è una persona molto divertente. Quando tu lo chiami al telefono lui risponde sempre, però molto spesso ti risponde ma non parla con te, cioè parla con te e con altre 15 persone insieme. Per cui l'unico modo, adesso abbiamo un appuntamento vago, l'unico modo è prelevarlo fisicamente, sì, sequestrarlo e inchiodarlo alle sue responsabilità di docente, perché stiamo per registrare una serie di altre lezioni di latino, mentre a questo punto posso anticiparti in diretta, sì, che da lunedì ci sarà una nuova rubrica all'interno di 11 su Italia 1 e Italia 2, che sarà Florenzi che legge Trilussa. Ma pensate, faremo sentire anche queste gemme. 800240024, intanto a proposito di Lotito, nel weekend, domani sera, mi sembra che l'Inter abbia la partita più pelosa, proprio in casa di Lotito, anche se Stramaccioni dice che con le grandi si trovano meglio, l'ha detto oggi in conferenza stampa, però guardi il calendario e dici quella che rischia di più è l'Inter. Assolutamente, è una partita complicatissima, anche perché la Lazio in casa va benissimo. È una squadra che spesso si esalta nelle grandi notti, soprattutto all'Olimpico, insomma, una squadra che ha vinto in casa contro il Milan, ha vinto il derby con la Roma, insomma, è una squadra che fin qui ha dato la sensazione di non subire la pressione o l'adrenalina delle grandi sfide, anzi, spesso di esaltarsi in queste situazioni. Per l'Inter è un grandissimo test di maturità, perché la vittoria contro il Napoli è stata certamente un grande risultato, ma dal punto di vista, insomma, del gioco, della sensazione, non è che sia stata poi, secondo me, una partita incredibile, è stata il contrario della vittoria con la Juve. Tanto la vittoria con la Juve aveva dato la sensazione che i meccanismi del campionato e le gerarchie potessero in qualche modo essere riscritte, tanto quella con il Napoli invece è stata un po' frutto del cuore, della grinta, anche degli episodi. Sì. Quindi secondo me è veramente un bel test. La Lazio è una grande, insomma, è una delle sei sorelle, o se volete delle cinque sorelle che cercano di insidiare la Juve. Delle cinque zie. Io caro Berlusconi. Senti, prima di salutarti, mentre mi danno del penoso e gobbo di eccetera, cosa che non sono peraltro, non sono juventino, però te lo chiedo lo stesso così chi scrive è contento. Llorente o Drogba per la Juve da Champions? Io punterei su Drogba. Anch'io. Perché Llorente è un ottimo giocatore di prospettiva, ma insomma la Juve, se ha bisogno di qualcosa, per me è una grandissima squadra la Juve, cioè così è molto competitiva, però se c'è qualcosa di cui ha bisogno è proprio di un attaccante da grandi notti, da grandi partite, che incuta timore agli avversari, che sappia interpretare quelle partite in maniera speciale. L'anno scorso nella finale di Champions si è vista la differenza tra Gomez e Drogba. Certo. Mario Gomez è un giocatore eccezionale, ha fatto caterve di gol, però è uno che poi nelle grandi occasioni ha sempre fallito, come si è visto anche all'europeo. Drogba è uno che ha giocato sei mesi sì, sei mesi no, polemica con l'allenatore, qualcuno dice che abbia contribuito a cacciare Villas-Boas, poi delle partite importanti il marchio c'è sempre, quindi Drogba è proprio un'altra categoria di altro pianeta, sì. Sono d'accordo con te, grazie per Luigi, un abbraccione, buona giornata, buona neve, let it snow. Does it inspire? Grazie a Roberto Scaltriti, questa è la mia voce preferita del rock, Eddie Vedder. Ma stiamo parlando d'altro, di sport, anche se ci divertiamo. Giuseppe da Roma, buongiorno. Dica. Io volevo parlare di Coppa Italia, sfida, sì, Milan-Juventus, si prospetta questa sfida per il Milan, penso che sia l'ultima spiaggia perché poi punti tutto sulla Coppa Italia e eventualmente sulla Supercoppa. La Juventus con un allenatore arrogante e ambizioso dovrebbe puntare al triplete perché è in corsa in Champions. Triplete mi sembra tanta roba, Giuseppe. Lo so, ma l'arroganza dovrebbe essere pari all'ambizione. L'arroganza non vince le partite, ma neanche l'ambizione. Sì. Ma l'ambizione la vince se hai i giocatori. Ma la Juve farà turnover? Come sarà questa sfida secondo lei? Secondo me manca troppo. La Juve non credo che con il Milan faccia turnover, però manca troppo tempo, è chiaro che l'ambizione la porterà a non abbassare la testa con il Milan, ha ragione quando dice che per il Milan, ultima spiaggia, certamente non è una squadra da scudetto, certamente non è una squadra da Champions, la Coppa Italia, diciamo che potrebbe essere il salvagente. Antonio, provincia di Venezia. Buongiorno Genta, un piacere Buongiorno. Veramente parlare con lei, le auguro le migliori cose perché è una trasmissione grazie. Veramente interessante la sua. Grazie Antonio. Ecco, sono un tifoso della Roma, un grandissimo tifoso, sì. Le volevo dare una chicca, ogni tanto sento che ripropone dei clip audio di alcuni cronisti tifosi, sì. Io gliene suggerisco uno, un tributo al grande Carlo Zampa è sì. il numero uno. Cioè, anche per arricchire il bagaglio culturale, mettiamolo così, della sua trasmissione, qualche chicca magari quando segna il capitano, cioè è spettacolare. Sarà, cioè, sarà fatto... Numero uno al mondo, ecco. Sì, per i romanisti. Per... No, ma sarà fatto. Grazie. Ecco, poi le volevo fare così, volevo condividere con lei un pensiero. Intanto grazie a Zeman perché veramente ci sta facendo divertire. Noi tifosi magari... un po' meno perché ci fa anche penare, però vedere la Roma giocare con la Fiorentina, cioè veramente... Gran partita, gran partita. No, veramente, numero uno. Grazie a Zeman perché secondo me fa bene al calcio, ovunque lui sia, a prescindere dalle polemiche passate con la Juve e quant'altro, ma nel campo lui è, come dire... E tanta roba per il calcio. Sì, ecco, tanta roba per gli occhi spesso, poi dipende anche dagli obiettivi che... Uno vuole raggiungere, dovessi io personalmente e volessi vincere lo scudetto non prenderei Zeman come allenatore, ma è un pensiero personale. David Macerata, buongiorno. Buongiorno Genta, complimenti Dica. Per il taglio moderno che avete sì, dato a questa trasmissione. Sì, grazie. Poi, sulla Juve? La Juve. Drogba. Per carità, bravissimo, però visto lo sforzo economico e l'età del giocatore, secondo me l'attaccante perfetto per la Juve è Balotelli. Grazie. Sì, grazie a lei. La Gioconda? No, ma c'è Raiola che dice che tanto non si muoverà di lì. Per Drogba, insomma, ne abbiamo parlato in settimana, il problema sono gli anni 34 e il fatto che vorrebbe un contratto praticamente di 2 anni e mezzo a cifre molto elevate. E questo mi sembra un discreto ostacolo. Quanto a Balotelli, io lo vedrei bene ovunque, perché è un giocatore che a me piace da morire, è un giocatore che avrebbe bisogno di giocare con continuità ovunque si trovi, continuità che il City non gli può garantire. Ma Raiola ha detto che la Gioconda non si muove, non è in vendita, non si sposta. Costan Peterson, buon pomeriggio. Ciao Carlo, amici sportivi. Non è un bel pomeriggio a Milano perché neviche come a Saskatchewan. Però insomma... Nevica come a casa tua, casa a Chicago. Sì, di queste ne ho visti. Senti, abbiamo anche il cuore un po' freddo, il cuore di Cantù non basta, sanguina. Arrivata ad Istanbul con l'obbligo di vincere una partita quasi impossibile, sfiga vuole che ci è arrivata con Tabu e Tajus in pessime condizioni fisiche, hanno dato tutto come sempre, non è bastato. Carlo, bisogna anche saper salutare chi ha veramente... messo tutto in campo. Cantù ha fatto questo, cioè, anche ovviamente abbiamo parlato, anche loro hanno parlato del Ramarca che rimane per le due partite con Olimpia, Luviana e due volte perso per 2 punti con Panathinaikos, sia ad Atene che a Cantù. 2 partite vincibilissime, fra l'altro, no, non vincibilissime, non voglio esagerare, però possibile vincere, ok? Quindi è questa la cosa che affligge le squadre italiane in questi ultimi anni, per un millimetro qui, un punto qua, una cosa qua, non passano il turno, quindi addirittura Siena l'anno scorso la partita con l'Olympiacos, quindi sì. 2 anni fa con Real Madrid, un punto, cioè ci sono queste cose qui che le squadre italiane stanno facendo grande sofferenza. Sì, io prevedo notte di sofferenza anche per Milano, che dovrebbe vincere al Pireo sperando che il Sedevita vada ad espugnare vittoria, mi sembra più facile che oggi spunti un sole da 20 gradi nel cielo di Milano. Ma guarda la cosa strana qui, Carlo, che mi dicono che anche se Milano perde, se Sedevita vince, Sedevita va a 4 vittorie, cioè tutto il pari lì, e per differenza canestri va avanti Milano. Quindi la partita di Milano sostanzialmente non conta in questa classifica, e tutto dipende da Sedevita che deve sbancare vittoria. Ovviamente difficilissimo. Se De Vito ultimo in classifica, non ha nessuna possibilità matematica di andare avanti, anche vincendo, e quindi sono eliminati, quindi motivazione a zero. Ovviamente vittoria, sa, se vinciamo andiamo avanti noi, giocando in casa, figuriamoci, sì, in zona Bascoli. Quindi molto ma molto difficile, okay? Ma anche qui, come Cantù, Milano può proprio mangiare le dita per occasioni perse, sì, certo, soprattutto certo, a Vittoria a più 17 è finito a perdere. A proposito di rimonte, pensavo che Siena fosse un po' più matura, perché più 28 con il Procom in casa, non puoi perdere questa partita, perché sappiamo bene, ma ce l'hai detto tu più volte, bisogna aspettare per valutare il valore reale di una Siena che si sta ricostruendo, però pensavo fosse un pochino più matura. Well, vedo le cose leggermente diverse, questo qui, ovviamente quello che tu dici non fa una grinza, però già qualificati, già più 28, troppo facile, asfaltando gli altri, se più 28, è successo l'impossibile, ok? Quindi, però questo non mi cambia il mio parere su Siena, che è una squadra che è cresciuta, è validissima, però sempre detto, vedremo la vera squadra di Siena a gennaio, quando comincia il top 16, e anche Coppa Italia, cioè il Final Eight di Coppa Italia, Milano, febbraio. Quindi lì vedremo, e per me Siena è una squadra solidissima, diversa dall'anno scorso, più prestante l'anno scorso, più veterano, più esperto, quest'anno più giovane, più atletico, più veloce, meno prestante, però molto duttili, molto versatili, molte diverse cose, sì, pressing eccetera, quindi squadra che mi piace molto. Senti coach, non so se penso di non avertelo ancora chiesto, un giudizio su Gianmarco Pozzecco che si mette a fare l'allenatore. Ha fatto, se non sbaglio, 3 partite, ha vinto prendendo una squadra, sì, che aveva vinto, che aveva perso 6 in fila. Ma coach, ma uno così può fare l'allenatore? Ha vinto 2, perso 1, cioè ti dico una cosa, Carlo, cioè, ovviamente so che Pozzecco è molto estroso e così, e la gente dice non ha la serietà per fare questo qui, però ti dico una cosa, di un capo allenatore nessuno può sapere niente fino a non vedere lui fare capo allenatore. Cioè, anche il mio giudizio è aspettiamo, perché ha fatto 3 partite sull'entusiasmo, adesso vediamo più in avanti. Lui in tutto questo però è stato molto furbo e sì, molto intelligente, ha preso Furio Steffei come vice allenatore, uno che veramente fa il lavoro pratico, lui ci mette gestione della partita, carisma, personalità, quelle cose lì eccetera. Però follia. Vediamo. Vabbè, grazie coach, ti abbraccio. Ciao Carlo, ciao amici. Ciao. Beh, siamo al top qui, siamo al top. Ragazzi, rieccoci, 800 24 00 24, siete tutti convocati. C'è chi scrive: al posto di esaltare un giovane ragazzo francese, lei che fa? Esalta una sua scorribanda di ragazzi, riferito a Niang. No, dico soltanto, io non voglio esaltare nessuno, tantomeno Niang. Mi limito a notare che fino adesso di lui si era avuta notizia soltanto per delle fesserie fatte in giro per Milano, dico solo questo. Mimmo, Padova, poi magari diventerà un super giocatore, chi lo sa. Mimmo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io volevo scrivere la mia opinione sulla formula della Coppa Italia. Sì. Voi prima avete detto che quest'anno è cambiato formula, quindi da qualche anno. Sì. Da qualche anno. Io vabbè, sono d'accordo sulla partita secca, sulla finale unica, però così come è stato creato il tabellone, è stato creato solo per garantire che le partite che i club più grandi arrivino in finale, perché cioè, secondo me la Coppa deve avere la squadra più debole che deve ospitare la squadra che gioca in casa, la squadra più debole che gioca in casa è quella più forte che gioca in trasferta. Ieri sì, se Milan andava a giocare a Reggio Calabria davanti a 20.000 spettatori, la partita sarebbe stata molto più avvincente. Sì, e non sono so d'accordo. Se Milan avesse vinto. Sì, no, avrebbe vinto lo stesso, però sono d'accordo con lei, potrebbe essere un'ulteriore miglioria, come d'altra parte capita in Inghilterra, però la Coppa Italia è inutile star lì. non la sentiamo noi, è inutile fare paragoni con gli inglesi, che invece a quella coppa insomma sono storicamente legatissimi. Franco Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a lei signor Carlo Genta e complimenti. Grazie. Volevo semplicemente parlare un secondo dell'affare Juventus, lo chiamo Fer. Possiamo stare qualche giorno a non sentire problemi che riguardano il signor Conte, le visite che fai con la famiglia, i problemi, le tematiche, quante sigarette fuma, né parlare soltanto unicamente da Juventus, non ce l'ho con lei ovviamente. Anche perché oggi anche perché direi che oggi l'argomento Conte è stato tralasciato. Io sono nato a Roma. Sono di Roma, ma sono come squadra calcio del Napoli. Sì. Strano, in genere qualcuno è di squadra che vinco, io ho preso una squadra che sta sempre perdendo, a parte questo periodo. Però mi farebbe piacere, sì, abbassare i toni, specialmente alle persone qualificate come lei. Non ne possiamo più, mi creda, signor Genta, non ne possiamo più. Di che? Della Juventus, di Conte, di questo, di quell'altro. Guarda che ne sta parlando lei, eh. Io oggi... di sentire. No, vabbè, ho capito, però... Franco, mi perdoni, ma ne sta parlando lei, mica io. Non ho nessuna voglia oggi di parlare di Conte. E non lo farò. Se volete, fatelo voi, come Franco da Roma. Ho voglia invece di parlare con Flavio Tranquillo. Ciao, Flavio. Buongiorno. Buongiorno. Di Conte? No. Di Conte? Di un'altra cosa. Senti, io ho ricevuto, sto ricevendo un sacco, ma tu non hai idea del numero di messaggi di tifosi dei Lakers preoccupati da morire. Perdono a New York, 116-107, fischi per D'Antoni, 30 punti di Carmelo Anthony, ma sai che ce ne sono tanti di preoccupati? Sì, percepisco anche io il numero abbastanza sorprendente per certi versi. Ma secondo me più che preoccupati dovrebbero essere molto preoccupati rispetto a quello che si vede. Il fatto è che quello che si vede non sono i Lakers, sono sì, i Lakers senza Nash, senza Gasol, con pochissimo Howard e per conseguenza con un Bryant che non è necessariamente solo positivo, e senza Steve Blake. Ragazzi, è tanta roba. Tanta roba, sì, ma poi soprattutto non siamo nemmeno a Natale. Per esempio, San Antonio perde coi Jazz, perde con Portland, ma non è questo il momento in cui vinci i titoli, vinci qualcosa. Adesso è il tempo dei bambini, no? Sì, è vero, peraltro, per onore del vero, che la Western Conference perdona non tantissimo, quindi se cominci a perdere posizioni, poi come minimo devi fare uno sforzo importante per recuperarle. Ammesso che tu ci riesca, e questo sicuramente avrà un po' un impatto su tutta la stagione, però la realtà è che per come è iniziata, come si è sviluppata e come sta proseguendo, sono ancora un cantiere completamente aperto, perché i giocatori non ci sono, quelli che ci sono non si intendono, e il terzo allenatore che è arrivato, ha giocato 23 partite, 3 allenatori, ancora non è stato in condizione di fare né nel bene né credo nel male moltissimo, però di certo non ha avuto un impatto emotivo forte come si poteva pensare. Sì, intanto ci sono anche le grane, leggevo di Howard che ha contratto fino a fine anno, ha detto so quale sarà la mia prossima squadra, mancava solo quello. Sì, beh, Howard è senz'altro il capitolo che non viene aperto abbastanza e che bisognerebbe aprire, però sai, il fatto del contratto fino a fine stagione era abbastanza chiaro, bisogna sempre ricordarsi che per non rifirmare con i Lakers dovrebbe rinunciare mal contati a una ventina se non trentina di milioni, nel senso che i Lakers possono prendere un anno in più e quindi più soldi rispetto alle altre 29. Flavio, com'è triste l'Eurolega sotto la neve quest'anno? Per gli italiani dici? Direi di sì. Ma guarda, senz'altro un po' così, però siccome abbiamo appena finito di parlare di NBA, io penso che noi potremmo benissimo seguire l'Eurolega con lo spirito con cui seguiamo l'NBA. Se ci sono tanti tifosi dei Lakers, credo che sia possibile essere alla stessa maniera tifosi del CSKA piuttosto che del Panathinaikos, piuttosto che del Barcellona. Se mi spiego, uno che ieri ha visto CSKA Barcellona, se ama la pallacanestro, è felice. È chiaro che se c'è la sua squadra o c'è una squadra italiana, un motivo in più per guardarla, ma ce ne sono abbastanza per guardarla lo stesso, io credo. Sì, non, questo è indubbio. Cioè, la miglior pallacanestro che si può vedere in questo momento al mondo è quella dell'Eurolega. Per chiudere di nuovo sull'NBA, Flavio, bel momento per Belinelli, che si è beccato perfino i complimenti di Pivodo che lo ha in qualche modo legittimato in quella squadra. È una bellissima cosa, anche perché Pivodo di complimenti è abbastanza parco. Abbiamo fatto già questo discorso, però insomma adesso lo sanno tutti che può giocare tanti minuti. Come dicevamo già l'altra volta, non è necessario che questi minuti ci siano sempre e così tanti, però questa è una prova di credibilità importantissima per Marco. La seconda prova, la più difficile, sarà riconvertirsi quando se la rotazione sarà definitiva in un giocatore con meno minuti, però ugualmente che avrà responsabilità, perché la filosofia di tipo è quella: se tu non sei a livello di un grande difensore, e Marco non lo è, non lo sarà mai, sì. Ammesso che tu ti metti in condizione di essere almeno decoroso, e Marco si è messo in questa condizione, io poi in attacco ti cavalco ancora di più se ti faccio giocare meno minuti, e certo. Lì bisogna farsi trovare pronti. Certo, io ti giro una domanda, Daniele da Venezia, faccio il portavoce, mi chiede di chiederti come mai vanno così bene i Warriors. Come mai vanno così bene? I Warriors. Vanno così bene perché hanno un gruppo coeso, come si suol dire, hanno moltissimo talento nelle due posizioni di guardia con Curry e Thompson, che sono due giocatori di grandi fondamentali, che giocano la pallacanestro che va di moda adesso, cioè con due che sono tutti e due playmaker, non sono due playmaker, tutti e due guardia, nessuno dei due guardia, penso a Brandon Jennings e Monta Ellis, penso a Jason Kidd e Raymond Felton. È quella la pallacanestro vincente, e loro hanno tutti gli elementi per giocarlo, incluso un giocatore come Lee che tiene botta coi 5, ma certo. Gioca anche a 7 metri dal canestro. Grazie Flavio, un abbraccio. Grazie a Flavio Tranquillo, e da Flavio Tranquillo passiamo ad Agatino da Catania. 800 24 00 24, numero verde. Eccomi qui. Eccola là. Dica. Buongiorno, io sono in disaccordo con lei sì. Sulla sua ammirazione per Balotelli. A parte ogni discussione di carattere temperamentale, di educazione, di cervello, eccetera. Io sto parlando del Balotelli calciatore. Io faccio una precisazione, dico, a prescindere da quello, sì. Balotelli tecnicamente non è che sia questo grande giocatore come lo vuole descrivere lei o come lo descrivono tutti i giornali. No. A me non piace, solamente ha una sola cosa di... dal lato tecnico, il tiro e la possanza fisica. Dopodiché non sa stoppare un pallone, non riesce a fare un dribbling che sia un dribbling, quindi tutta questa esaltazione di questo qui, dico, a prescindere dalla opportunità che riferisca al suo equilibrio mentale, al suo carattere, alle sue intemperanze e a quant'altro ha dimostrato sino adesso, quindi per me la Juventus farebbe un grosso errore. Beh, ma tanto non lo piglia, meno male oppure no, fatto sta che io non la penso assolutamente come lei. Secondo me Balotelli è un giocatore non solo fisicamente dotatissimo, non solo dotato di grande potenza, ma è uno che a calcio sa giocare e si è capito. Si è capito non appena Mancini l'ha messo ancora ragazzino nell'Inter, perché io ricordo certi gol e certe giocate già quando era ragazzino nell'Inter che solo quelli buoni riescono a fare. Antonio, provincia di Vicenza. Buonasera, complimenti per l'ottima trasmissione. Grazie. Io volevo anch'io ritornare un attimino sull'argomento della Juventus e soprattutto sull'attaccante. Non se ne parla più e spero che questo sia un buon segno, ma a mio avviso Drogba è fortissimo, Llorente anche, ma forse il più indicato, perché non pensa potrebbe essere Huntelaar, anche lui a parametro zero. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, Let it snow, let it snow, let it snow. E tutti un po' preoccupati per questo tempo invernale. La domenica dei palloni rossi, non perché siamo vicini a Natale, ho detto prima, ma perché rischiamo di vederne molti sui campi. Ma chi meglio del colonnello Mario Giuliacci può dissipare le preoccupazioni? Può togliere le nuvole dalla testa dei tifosi. Colonnello, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per questa bella presentazione. Posso chiederle per che squadra tifa? Dovrei dirlo, poi gli altri mi vogliono, ma io abito vicino a Milano, ovviamente. Sì. Tifo per una delle milanese, e propriamente per Milano, ma da molto tempo, ecco, sì. Quindi non per... altri motivi. Non si sbilancia, insomma, sul colore della milanese, ma glielo concedo. Sì, nonostante sia un perugino, dovrete fare per Perugia, ma il Perugia di Novellino non c'è più, purtroppo. No. No, è un po' lontano. Senta, come la mettiamo con i prossimi giorni? Domani Udinese-Palermo alle 18 e Lazio-Inter domani sera. Ci sono, sì, rischi? Sì, diciamo, guardi, una premessa di carattere generale. Innanzitutto, no, non nevicherà in nessuna delle partite che sono in programma tra domani e dopodomani, tanto fatto chiarezza su questo. Per Udine, a Udine domani alle ore 18 ci saranno 5 gradi di temperatura e pioverà. Domani alle ore 18 ci saranno 14 gradi di temperatura, soffia lo scirocco, e pioverà. A Firenze domenica alle ore 20:45 ci sono ancora delle residue piogge, e dovrebbe fare una temperatura intorno a 8 gradi. A Verona domenica sarà sereno, poco nuvoloso perché la perturbazione ormai è andata via, ci saranno 5 gradi. A Milano domenica sereno, ma farà un po' freddino, temperature intorno a zero, a fine partita anche 1-2 gradi sotto zero, no? Poi arriviamo a Torino domenica alle ore 15, sì. Diciamo una temperatura intorno a 2 gradi e sarà sereno. E poi resta Parma domenica alle ore 15, diciamo nuvoloso, da poco nuvoloso a nuvoloso, un 2-3 gradi sopra zero. Quindi che i tifosi si coprano bene, ma stiano tranquilli che vedranno, sì, le loro partite. Non ci sono, almeno io lo vedo come sportivo, ma voi siete più esperti di me, non ci sono seri motivi per cui si possa dire oddio, quella partita è a rischio per colpa del tempo. Direi che se si eccettua la temperatura che ho detto intorno a 0 gradi di Milano, dove farà un po' freddo, ma si vestiranno un po' più pesanti, voglio dire, i giocatori, voglio dire, gli spettatori, per il resto direi no problem. Perfetto, grazie colonnello. Grazie a voi. Buon lavoro. E che vinca il migliore. Che vinca il migliore sempre. Che vinca il migliore sempre. Non sempre succede, ma dovrebbe. Alberto, Venezia. Sì, salve. È un piacere parlare con lei. Reciproco. Io volevo, se possibile, rispondere allo scattatore di prima, per Balotelli. Sì. Io che è scarso. La prima volta che l'ho vista, è scarso, ritengo che scarso sia Balotelli. Uno dei più grandi giocatori italiani che abbia mai visto giocare a calcio, e non solo per un strapotere fisico o per le situazioni tecniche che riesce a creare, ma soprattutto perché all'entrata in campo cambiava il suo tempo l'Inter. Guardi, a me è rimasto impresso, l'ho già detto diverse volte, un gol che fece a Udine, palleggiando a 25 metri dalla porta, ha ricevuto un passaggio, ha palleggiato il pallone con la sua ala, ha sparato un destro imparabile. Io ho detto questo è uno che ci sa fare, altro che scarso, non sa stoppare il pallone, eccetera eccetera. Non so dove arriverà Balotelli. probabilmente dove vuole o dove decide di arrivare con la sua testa un po' bizzarra, però dal punto di vista tecnico calcistico mi sembra un giocatore abbastanza indiscutibile. Gianluigi Salerno, buongiorno. Buongiorno, ringrazio la redazione per avermi fatto intervenire. Grazie a lei. Allora, guardi, io su Balotelli la penso come il radioascoltatore di due telefonate fa, ovvero sia... È scarso. No, non è che è scarso, però secondo me per essere un top player ci vuole qualcosa in più, nel senso che lui ha un gran tiro, sicuramente fisicamente un giocatore prestante, però se lei lo osserva nelle partite ha delle pause incredibili e secondo me manca in dinamismo. Nel calcio moderno, secondo me, un top player in quel ruolo ha bisogno di maggiore cattiveria e continuità. Faccio un esempio che per me nel ruolo è il migliore in questo momento, è il colombiano Radamel Falcao. Cioè, se parliamo di giocatori di un certo rilievo, per me Balotelli è una spanna sotto in questo senso. Ma di dinamismo mi sembra che ne abbia, qualità fisiche non si discutono, può essere disciplinato tatticamente in maniera migliore, però secondo me Balotelli ha bisogno soltanto di una cosa, di giocare con continuità, anche perché è una testa bizzarra che, se responsabilizzata, riesce a rendere meglio, e ce lo ricordiamo ad esempio agli europei. Da questo punto di vista io credo che il City non sia la piazza migliore per crescere e per esplorarne in maniera completa il talento. Noi adesso ci fermiamo, io per quanto mi riguarda vi auguro buon Natale e buon anno, perché mancherò per qualche giorno, lascerò il volante a Giovanni Capuano, che già troverete ovviamente domani pomeriggio alle 5, anche la settimana prossima sarà tutta per lui, e poi ci sentiamo con l'anno nuovo e con tutti i convocati. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Merry Christmas to all Manchester City fans and thank you for your support.